9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori della versione di Oscar, il gattaccio di questo giovedì 13 settembre vi saluta, auguri a chi festeggia, se si chiama Giovanni oggi, che San Giovanni Crisostomo. Prima pillola della giornata, tutti oggi inneggiano il fatto che la corte tedesca ovviamente ha detto sì agli aiuti e che in Olanda hanno vinto i partiti europeisti, e quindi sembrerebbe che noi non dobbiamo più cominciare con queste canzoni un po' da menagrami. Ma io vi dico, attenti, leggete sulla stampa, c'è un'intervista, anzi al Corriere della Sera, in cui il ministro Severino dice: noi tecnici non siamo capaci di vendere sogni, e in questo quindi il paese spesso non ci capisce. Vengo anch'io a Nottuno. Ma perché? Perché no? E poi riflettete, cari ascoltatori, sul titolo di apertura dei Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano oggi dà un annuncio che da qualche settimana mi avete sentito dire, quando io dicevo che non capivo come i partiti potessero fare questo conto per cui il voto di protesta non fosse così alto. E il Fatto Quotidiano oggi conferma la mia lettura di come si traspone la potenzialità di un voto di protesta molto esteso in una scelta di protesta poi molto più ampia di quanto pensino il PD, il PDL, non ne parliamo, e l'UDC. Come titola il Fatto Quotidiano: sorpresa al primo partito e Grillo più di Pietro, 5 Stelle al 18%, Italia dei Valori al 7,5%. Se li sommati, anche il PD è fritto. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E va bene, ma veniamo al tema della giornata, che come vi ho anticipato è una sentenza che ieri mi ha fatto molto riflettere, che non ho voluto affatto commentare in diretta, mentre dopo averla letta ieri mattina presto sul giornale andavo poi in onda, perché ho pensato che fosse meglio tenere la lingua frenata. È una sentenza che riguarda il terrorismo, e ci arrivo subito. È la sentenza con cui la Cassazione ha confermato il dispositivo della Corte d'Assise d'Appello di Milano sul un gruppo che è denominato Nove Brigate Rosse, Partito Comunista Politico Militare, un gruppo che non è stato considerato però né dalla Corte d'Assise d'Appello né dalla Corte di Cassazione meritevole dell'applicazione delle fattispecie del codice penale che riguardano i reati di terrorismo, e che invece ricade nella definizione di associazione sovversiva. Questo gruppo ha incendiato la sede milanese di Forza Italia, ha incendiato a Padova la sede di Forza Nuova, questo gruppo aveva in programma attentati alla sede di un quotidiano Libero, aveva nel suo mirino il manager della Breda Vito Schirone, aveva nel mirino un attentato per uccidere il giuslavorista senatore del PD Pietro Ichino. Ma i giudici in corte d'assise d'appello e anche in corte di Cassazione hanno detto: no, non sono terroristi. Allora io chiedo a voi ascoltatori di dirci come la pensate, nel pieno rispetto ovviamente come sempre dei magistrati, e di partecipare al 349-238-6666 con gli sms e al numero verde di prenotarvi per le telefonate. Ora vi presento gli ospiti, ma prima di presentarvi gli ospiti devo dirvi che iniziamo a ricevere tantissime lettere di nuovo al sito Disperati Mai su Radio 24, che noi non abbiamo mai chiuso dopo i mesi di campagna quotidiana che abbiamo dedicato alla condizione terribile di discontinuità sul mercato interno di artigiani, commercianti, piccole imprese appiagate dalle tasse, dallo Stato, dai cattivi pagamenti, da un sistema del credito che non ne ha più per nessuno. E purtroppo, appena è finito agosto, ci siamo trovati tutti a dover ricevere nuove centinaia di lettere. E quindi io riprenderò a darne testimonianza, perché mi sento veramente fuori posto per il mestiere che faccio, a limitarmi oramai solo a leggerle senza dare un seguito, dare una voce, far capire che per noi la condizione terribile, ricordo a tutti che in questo 2012 la perdita di reddito disponibile è la più grave dal secondo dopoguerra, ci induce comunque a prestare un pezzo di noi a drammi come questo, di questa lettera che voglio leggervi prima di andare al tema del giorno. Ce la manda Pietro Andrea, non leggo il cognome ma vi assicuro che è firmata. Caro Oscar, mi permetto di scriverle per condividere una mia emozione, perché nonostante tutto ne provo ancora e mi spiego. Mi chiamo Pietro Andrea, sono un artigiano coramaio, cioè un vero artigiano che lavora, quantomeno ci prova, sviluppando l'intelligenza delle mani. Dopo due lauree, due borse di studio in Germania e in Francia, resomi conto che non vincevo un solo concorso pubblico, ho deciso all'età di 23 anni di aprire una bottega artigiana. Due le regole di partenza: materia prima eccellente e lavorazione assolutamente a mano, niente macchine, niente consumo di energia elettrica. Dopo 15 anni di frustrazioni, sacrifici e un continuo arrancare tra problemi economici e burocratici, continuo a resistere, indebitandomi però oramai fino all'osso per pagare le tasse sproporzionate e ingiuste rispetto alla mia tipologia di lavoro e affrontando quotidianamente una burocrazia, come la vogliamo chiamare, un po' ottusa a volte. Sottolineo che le tasse vanno pagate, ci scrive Pietro Andrea, e ci mancherebbe. Se valessi un solo centesimo non potrei guardare negli occhi mia figlia, ma come lei può capire, il mio non equilibrio oramai è sempre più alto. Pago come un calzaturificio, eppure sono una partita IVA individuale che rifiuta annualmente di essere congrua con gli studi di settore, con tutto ciò che ne consegue. Questa premessa per raccontare un aneddoto. In questo periodo mi serve un veicolo commerciale per trasportare i miei manufatti in giro per l'Italia e promuoverli. Purtroppo non ho attualmente un centesimo in cassa. Un amico mi dice allora di dare un'occhiata per acquistare il mezzo che mi serve all'istituto di vendite giudiziarie. Caro Oscar, così ho fatto, però ho pianto. Mi vergogno, ma non ho avuto il coraggio di acquistare alcuno di quei veicoli. Migliaia di mezzi commerciali sequestrati a insolventi, come io posso oramai candidarmi a essere tra poco, sequestrati a loro e venduti all'asta a pochi euro. Ho visto in ogni mezzo la vita di lavoratori, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, trascinata nella polvere. Mi ci metto anch'io nel gruppo, trascinata da uno Stato che non è capace di distinguere chi dichiara di non essere più in condizione di pagare e chiede, implora un riconoscimento che consenta di rientrare poi in bonus, invece da un evasore totale e incallito. Capiamoci, sono consapevole che fra questa migliaia di mezzi anche una percentuale apparteneva magari a qualcuno che ha lavorato in modo non legale. Io non sono in grado di distinguere, ci dice Pietro Andrea, ma tutti gli altri? Io resisto, ma fino a quando? Tra Equitalia, INPS, INAE, tasse e aziende pubbliche e private che non pagano, io sono al collasso. Un artigiano sono io. Io non sono uno studio di settore. Un abbraccio a Pietro Andrea, non commento, ne riceviamo tantissime di nuovo e mi auguro che il dibattito politico nei prossimi mesi tenga conto della gravità e la serietà di quello che avviene in questo paese. Allora, per commentare invece la sentenza nella quale abbiamo letto ieri che questo gruppo del Nuove Brigate Rosse, Partito Comunista Politico Militare, nel dispositivo si leggono frasi del tipo che la fattispecie di terrorismo va applicata con circospezione, perché va applicata solo a chi si prefigge il proposito di colpire e intimidire indiscriminatamente la popolazione o esercita costrizione sui pubblici poteri o vuole destabilizzare gli assetti istituzionali. Ma invece quando gruppi come questi scelgono con cura le vittime da mettere nel mirino, evitando quindi vittime indiscriminate nella popolazione, allora in quel caso la loro è una strategia che considera la guerra, così si legge, come fase suprema della lotta di classe, e questo non è terrorismo, dice la Corte di Cassazione, confermando la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Per commentare questa trasmissione abbiamo con noi Pietro Ichino, che era appunto uno degli oggetti, diciamo così, delle attenzioni di questo gruppo di sovversivi, non di terroristi. Buongiorno e grazie a Pietro Ichino, giuslavorista, senatore del PD. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei. E Giampaolo Pansa, scrittore, giornalista, saggista, che ringrazio anche lui di essere con noi. Grazie Giampaolo. Ecco, grazie, un saluto e un abbraccio a Oscar e soprattutto a Ichino. Allora, Ichino, è delicato chiederglielo, però non ho potuto fare a meno ieri di pensare a lei. Come ha preso questa sentenza, quella della Corte d'Assise d'Appello e la conferma in Cassazione? La sentenza non è una sorpresa, perché la Cassazione aveva già assunto questo orientamento nello stesso procedimento qualche mese fa, quando annullò la prima sentenza della Corte d'Assise di Milano, che invece aveva riconosciuto l'aggravante del terrorismo. Quindi era del tutto prevedibile che la stessa Corte avrebbe poi mantenuto questo orientamento. In questo senso non c'è sorpresa. Resta l'interrogativo su questo orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione. Le sentenze, per carità, si rispettano, ma come giurista mi sento di dissentire per questo motivo, cioè che la aggravante dell'intendimento terroristico è stata introdotta nel nostro codice penale proprio per rafforzare la lotta contro gli attentati delle Brigate Rosse di prima linea, insomma, nella stagione che ben conosciamo e che per fortuna ci siamo lasciati alle spalle. Ma non c'è nessun dubbio che il legislatore penale volesse colpire quel modo condurre la lotta armata da parte di queste organizzazioni. Quindi questo mutamento di orientamento della Cassazione mi sembra per un verso una forzatura e per altro verso un errore, perché è un abbassare la guardia rispetto a questo fenomeno che è sempre vivo e anche se ormai ci siamo lasciati alle spalle la stagione, gli anni di piombo, però io non posso dimenticare, primo, che ho chiesto più volte che venga rimosso il mio dispositivo di sicurezza dopo rinnovato la richiesta dopo l'arresto di questo gruppo, e però la Digos insiste a mantenerlo, e quindi vuol dire che il pericolo esiste ancora. Ma poi vorrei ricordare anche che io fin dall'inizio di questo procedimento ho esplicitamente, pubblicamente, anche in udienza, offerto di ritirare la mia costituzione di parte civile alla sola condizione che gli imputati mi riconoscessero il diritto a non essere aggredito. Quindi non chiedevo risarcimenti, non chiedevo dichiarazioni politiche di nessun genere, solo il riconoscimento del mio diritto all'incolumità fisica. Nessuno degli imputati mi ha voluto concedere questo riconoscimento, e viceversa abbiamo sentito il rinnovarsi di minacce di morte da parte degli stessi imputati durante il procedimento e in piena in udienza. Quindi questo intendimento è attuale, non è passato, non è cosa del passato. E d'altra parte questo intendimento non riguarda soltanto né principalmente la mia persona, perché è evidente che loro fanno di me il simbolo delle persone che pensano e agiscono in un certo modo. Quindi l'aggressione investe tutta una categoria di persone, che sono gli studiosi di diritto del lavoro e in particolare quelli che si occupano di risolvere i problemi. Non è un caso che i colpiti negli anni passati siano stati i Gino Giugni, Massimo D'Antona, Marco Biagi, Ezio Tarantelli, cioè tutti costruttori di soluzioni. Ecco, in questo senso l'obiettivo non è di colpire una singola persona, come dice la Cassazione, l'obiettivo è di intimidire un'intera categoria di persone, inibire il pensiero sul diritto del lavoro e l'economia del lavoro di un'intera nazione. Per questo mi sembra molto miope, molto sbagliato questo orientamento della Cassazione, che però, ripeto, rispetto, perché di fronte a una sentenza bisogna anche accettare la decisione dei giudici. Allora, io saluto e ringrazio Chino, perché so che ci deve lasciare, perché a secondi ha un impegno che comincia. Io preferisco ascoltare anche cosa pensa Giampaolo Pansa, continuo a tenere la mia lingua a freno, per così dire, e chiedo quindi a Giampaolo, che ci ha dato molti libri, molte ricostruzioni, e ha iniziato a farlo naturalmente quotidianamente da grande giornalista, quando colpivano i padri putativi e reali di questi gruppi che ancora però hanno agitato le cronache e sono ancora operativi, non sono più quelli dei vecchi tempi, ma ci sono ancora, si animano nella pancia della società italiana. Giampaolo Pansa ci ha raccontato tutto questo negli anni, fin dagli anni in cui non si capiva niente di questo fenomeno, in cui il PC diceva che era pura provocazione, era i servizi, era la destra e così via, e adesso si è chiusa una parabola. Adesso siamo al fatto che chi vuole uccidere, siccome seleziona bene le vittime, vuole uccidere poi in fondo dei esperti di diritto del lavoro, è mica un terrorista uno che vuole compiere azioni simili, ma se incendia un giornale mira bene, sceglie bene il giornale, magari è libero, è di destra, mica è terrorismo questo. Allora chiedo, Giampaolo Pansa, che effetto ti fa questa sentenza? Ma dunque, io sono un signore molto meno elegante di Pietro Ichino, che saluto e che abbraccio, e quindi io non rispetto affatto questa decisione della Cassazione. La Cassazione ha fatto una cazzata, ha fatto una cappellata, e soprattutto io non so quando si riuniscono, non sono un esperto di diritto e tantomeno non sono un avvocato cassazionista, di che cosa discutano questi giudici supremi quando debbono decidere su un problema che è stato affidato a loro. Ma probabilmente saranno certamente dei signori anziani, perché non è che si arriva in Cassazione. Un magistrato arriva lì quando ha 30 anni, ne ha almeno 50, 60. Quindi sono signori che hanno probabilmente dimenticato che cosa è accaduto all'inizio di questa epoca terribile del terrorismo, che è iniziata alla fine del 69, 1969, è cominciato ad esplodere nel 70 e nel 71. Mi ha molto colpito il fatto che se decidono di ammazzare soltanto uno non è terrorismo, ma sovversivismo. Ma allora domando, e quelli che hanno preso Moro, è vero che hanno ucciso anche la sua scorta, ma era solo un incidente di percorso e il vero obiettivo era un uomo solo. Quelli che hanno sequestrato Moro per tantissimi giorni e poi l'hanno accoppato non erano terroristi, e non erano terroristi quelli che hanno ucciso tanti magistrati per la strada, sorprendendoli all'uscita mentre andavano al Palazzo di Giustizia, quando ne tornavano, anche quelli non erano terroristi. Cioè, la verità è che si sta ripetendo, questo è un paese, parliamo un istante dell'Italia, che è senza memoria, perché un po' di memoria anche collettiva si dovrebbe avere, e soprattutto chi esercita poteri molto delicati come i giudici di Cassazione dovrebbe ricordare. Perché quando è nato il terrorismo, soprattutto quello di sinistra, perché poi c'è stato anche un terrorismo di destra, ma ha avuto un'espansione e degli effetti drammatici inferiori a quello rosso, appunto delle Brigate Rosse e poi dei suoi epigoni poi successivi, prima linea, le varie bande come quella di Marco Barbona e robe di questo genere. Qui c'è una prima fase in cui c'è l'incapacità di vedere il rischio che sta per emergere. Ci sono segnali, ci sono sintomi che non vengono tenuti in conto. e quindi lì si potrebbe poi fare un discorso molto lungo, ma che evito perché siamo in una trasmissione radiofonica. Poi c'è una seconda fase, che quando che alla incapacità di vedere il rischio subentra la voglia di non vederlo. Ma anche tu, Oscar, l'hai appena accennato, è la fase in cui le Brigate Rosse non esistono, non sono rosse ma sono nere, sono gruppi organizzati dai servizi segreti americani, dalla famosa CIA, sono al servizio della Confindustria, e quindi ed è la fase più terribile, perché che cosa può accadere, che cosa è accaduto anzi in quella fase, che anche di fronte a dei fatti clamorosi, prendiamo quello meno sanguinoso, la scoperta dei covi delle BR, cioè di questi appartamenti pieni di armi, dove i gruppi, i nuclei di fuoco si radunavano, si armavano e di lì partivano per compiere le loro incursioni. Ma qui ci sono stati illustri giornalisti, non voglio nominarli perché alcuni sono morti, uno in particolare, che ha scritto su riviste, su settimanali, su quotidiani importanti che i covi non esistevano, che erano una messa in scena della polizia e che i magistrati che li andavano scoprendo gabbavano l'opinione pubblica mostrando qualcosa che non esisteva. Se poi pensiamo che cosa è accaduto, visto che è stato nominato anche Biagi, naturalmente tocco ferro e spero che Ichino non faccia la fine di Marco Biagi, ma Marco Biagi non era riuscito neppure ad avere la scorta, ma vogliamo ricordarlo che ci fu ministro dell'interno, adesso non mi ricordo il nome, mi viene in mente ma non voglio dirlo, di un governo di centrodestra che diceva Biagi un rompicoglioni, testuale, lo pubblicò il Corriere della Sera, che non è un organo di estrema sinistra o di estrema destra. Biagi quella sera, quando se ne ritornò a casa dopo essere sceso dal treno e inforcò la sua bicicletta, non aveva nessuno che lo difendesse. Se avesse avuto una scorta probabilmente Biagi sarebbe ancora vivo. Allora, ma quello che sta accadendo adesso, cosa vogliamo aspettare? Vogliamo aspettare che succeda quello che è successo ieri a Bengasi in Libia? Che, visto che le Brigate Rosse sembrano disperse, questi signori delle brigate comuniste combattenti non sono dei terroristi ma dei sovversivi, vogliamo che il posto occupato da loro venga preso dai uomini di Al-Qaeda, come sembra sia accaduto a Bengasi. Quindi mi pare un atteggiamento che non, anche dal punto di vista culturale, se io avessi di fronte questi gli uomini, i magistrati di Cassazione che hanno stilato questa sentenza, gli direi: ma scusate, non avete letto qualche libro? Non vi ricordate degli articoli di giornale? Non vi guardate intorno? Non avete ascoltato persone che sono rimaste superstiti perché hanno perso il padre, il fratello, a volte il figlio, ammazzato dal terrorismo italiano? Che cosa pensate? Che siccome non volevano mettere le bombe dentro il Duomo di Milano, questi sono soltanto dei sovversivi e quindi possono godere di uno sconto di pena? Mi sembra assurdo. Cioè, qui in Italia c'è una drammatica crisi di autorità, e tu, Giannino, Oscar, lo racconti quasi tutti i giorni, ma se la crisi di autorità dipende anche dal discredito che queste autorità istituzionali hanno, mi domando se anche non sia colpa di queste autorità che latitano, che fanno degli errori, che in un caso come questo non hanno il coraggio di esaminare quanto è accaduto e quanto può accadere, perché Ichino rischia ancora, ha una vita blindata, la sua esistenza privata è stata sconvolta, non voglio dire annullata, spero per lui, ma qui non c'è più regola, cioè chiunque può essere accoppato per la strada se questi gruppi diventano molto più arditi, organizzati e avventuristi di quanto già non lo siano oggi, e poi arriva la Cassazione che dice: no caro mio, siccome hanno deciso di ammazzare soltanto Giampaolo Pansa e non le 30 persone che in quel momento stavano nel caffè con lui mettendoci delle esplosive e facendo saltare tutti, quello non è terrorismo ma è sovversivismo. Sì. Ma insomma, signori giudici, guardatevi allo specchio la mattina, dovreste fare un po' di esame di coscienza e rendervi conto che avete fatto un errore grande come un palazzo. Allora, io ricordo a tutti che un bel po' di mesi fa un dirigente dell'ansaldo nucleare a Genova è stato colpito. Noi non sappiamo ancora nulla e alla luce di questa sentenza chi lo ha colpito potrà congratularsi con se stesso, perché ha scelto bene il suo bersaglio, non ha fatto altre vittime, e quando anche poi incendiasse un giornale non sarebbe terrorismo neanche quello. Allora, io penso che di sentenze come queste è lastricato purtroppo il ritorno a il via libera. Via libera significa non è che da questa sentenza ovviamente c'è il via libera a commettere reati, ma diciamo che un'area che intorno a chi ha continuato, non ha mai smesso a predicare e a tentare di praticare, sia pure con mezzi più limitati, la lotta armata, l'omicidio per colpire il nemico di classe, ecco, che intorno a questo possa di nuovo consolidarsi un pericolosissimo impulso a dire mai in fondo, ma se anche la Cassazione, ma se anche le corti d'assisi di appello dicono che fare della guerra l'espressione più alta della lotta di classe è una cosa verso la quale il giudice della Repubblica Italiana non può che manifestare comprensione, perché questo non è terrorismo, c'è scritto testualmente questo nella sentenza. Io credo che questo sia una responsabilità storica che quei giudici si sono assunti. Non mi fa velo il rispetto che tutti dobbiamo alle sentenze per dire che queste sentenze sono passi verso il buio, sono incoraggiamenti a chi non vuole commettere reati. Un giudice non potrà mai farlo, non sarà l'effetto di una sentenza l'incoraggiamento a commettere reati, ma a un ritorno alla comprensione verso fenomeni di questo tipo. A mia opinione, proprio perché conosciamo di qua la gravità della sofferenza del paese, io per esempio ho gente che ha firmato il manifesto di fermare il declino, che vuole bloccare le autostrade perché non ce la fa più a tenere aperto, sono dei concessionari di automobili eccetera eccetera, io li imploro di non farlo. Quindi chi conosce la durezza dei fenomeni economici che colpiscono centinaia e centinaia di migliaia di italiani si deve porre il problema di come si evita che il cherosene vada nel fuoco. Se io inizio a dire che per lotta politica posso concepire la guerra come strumento di questa lotta politica e lo Stato certo mi applicherà delle pene, perché i signori che compongono il gruppo del Brigate Rosse Partito Comunista Politico Militare hanno avuto condanne, non hanno avuto le condanne che chiedeva ovviamente la procura, hanno avuto condanne meno gravi perché non c'è l'aggravante del terrorismo ma solo quello del sovversivismo. Ma se io mando un segnale di questo tipo, siccome c'è anche gente che dice prendiamo le armi oppure battiamo le mani, diamo una mano a chi colpisce il dirigente dell'ansaldo nucleare oggi, magari domani quello dell'IVA o che ne so, dell'Alcoa, del Surgis, di quello che volete voi, perché un giudice non ci deve pensare? Voi dite che adesso io non devo alzare la voce, è vero, non bisogna mai alzare la voce. Poi però chi spara non è un terrorista. Ha senso non alzare la voce perché siamo tutti ben educati, rispettiamo l'autonomia e l'indipendenza e ci sentiamo poi dire e prendiamo pensosamente la testa tra le mani che chi spara non è un terrorista? Che cos'è un terrorista? Se non è attaccare le istituzioni dello Stato, minacciare la vita e attentare la vita e ripetere le minacce anche nell'aula di tribunale a un senatore della Repubblica, che cos'è attentare le istituzioni? Solo parlare male di Giorgio Napolitano e attentare le istituzioni? Vabbè. Stiamo commentando questa sentenza che è venuta a conferma dalla Cassazione l'impianto della Corte d'Assise d'Appello di Milano su Brigate Rosse e Aperto Combattente hanno fatto degli attentati e avevano nel mirino Pietro Ichino. Non sono terroristi ma sono dei sovversivi, hanno detto i giudici. Sentiamo come la pensa qualche ascoltatore. Cominciamo da Walter, che ci chiama da Massa Carrara. Prego Walter. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, premetto, diciamo che non sono un estremista, sono un liberale, mi sono iscritto anche al suo gruppo, al suo movimento, quindi grazie. Per togliere diciamo ogni dubbio. Sono però un laureato in scienze politiche e in sociologia, sono un appassionato di linguistica e di storia. E secondo me le faccio notare che non capisco il però va bene, cioè, no, dice solo però. Termini, okay. No, nel senso ora le spiego, i termini diciamo sono molto importanti. Personalmente sono d'accordo con la sentenza della Corte di Cassazione, semplicemente perché un atto di terrorismo è un atto che colpisce in maniera indiscriminata, mentre un atto sovversivo è un atto che non è meno grave a mio avviso, anzi per alcuni aspetti, per molti aspetti ha la stessa gravità, è un atto che tende a sovvertire un ordine costituito, più o meno legalmente, nel nostro caso un ordine democratico, con l'utilizzo di mezzi violenti. Sì, in questo caso ci troviamo davanti a un gruppo le cui mire, diciamo, non sono tanto quelle di creare una strategia del terrore, come è successo con il terrorismo nero, oppure sta succedendo col terrorismo islamico, caso più eclatante l'11 settembre. Ma invece quello di eliminare alcuni obiettivi. Però vede, io qui, io capisco il suo punto di vista, non è che per me, che sono liberale garantista, non mi ponga il problema. Quello che mi stupisce è che sia il giudice ad accettare la logica per il quale è il sedicente brigatista a dire il senatore Ichino è un obiettivo politico, ergo non è indiscriminato. Se l'appartenente al gruppo mi dicesse domani il senatore Ichino e la sua scorta, servi dello Stato imperialista, delle multinazionali, sono i miei obiettivi e non sono indiscriminati, cosa facciamo? Seguiamo il terrorista e questa sua individuazione degli obiettivi secondo il suo criterio, che nell'ordinanza, ripeto, nel dispositivo è riconosciuto la guerra come strumento supremo della lotta di classe, quindi non c'entra niente col terrorismo. Allora, se noi accettiamo questa logica, accetteremo d'ora in poi che i brigatisti, i componenti di gruppi armati, ci dicano alla luce della loro logica chi sono i loro obiettivi e non saranno indiscriminati. E noi cosa diciamo? Diciamo che hanno ragione loro? Non lo so, a me francamente non convince. Rispetto il suo punto di vista, come ovviamente devo rispettare la sentenza. Filippo, dalla provincia di Vicenza, che dice? Buongiorno Giannino, è un piacere. Ascolti, io interpreto questa sentenza come semplicemente un fallimento da parte dello Stato. Il suo Stato sta fallendo, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale. E diciamo che in questo fallimento fa come l'orchestrina che suona mentre il Titanic affonda, cioè qua non siamo di fronte al terrorismo, ma sì, sono quattro pazzi sovversivi. Ma le vorrei aggiungere un'altra cosa. Lo Stato si rivela anche molto codardo in questo caso, perché è tenero con questi terroristi, perché nel pubblico hanno grande clamore e poi anche sono violenti, possono anche colpire le istituzioni, mentre nella mia terra, nel Veneto, che anche qui dal punto di vista sociale lo Stato sta fallendo, lo sa benissimo che lei ne parla tutti i giorni, ma anche dal punto di vista delle spinte autonomiste, della differenza che c'è sempre tra nord e sud, del costo della vita, eccetera, e invece nella mia terra stanno prendendo di mira tutti quei gruppi autonomisti che stanno cercando di alzare la voce e spingere il popolo veneto a autodeterminarsi, e stanno setacciando tutte le loro sedi e li stanno incriminando. Quindi, e questo non, di questo non parla nessuno, gente che non fa male, non fa attentati, non fa nulla. Quindi, oltre ad essere uno Stato ipocrita, perché sta affondando e suona l'orchestrina, come le ho detto prima, fa la voce grossa con i deboli, che denunciano questo suo fallimento, mentre con queste persone che sono potenti anche dal punto di vista mediatico, diciamo che se la fa addosso, e questa sentenza è una cosa veramente vergognosa. La ringrazio, un'opinione molto diversa da quella di Walter. Vi dirò che non solo sta fallendo, non solo, secondo me, strizza un po' l'occhio anche con sentenze come questa, a dire ma sì, capiamo la protesta, in fondo cercate di capire anche noi giudici, non solo vediamo la sofferenza, ma possiamo anche capire chi arriva a queste robe. Io ci vedo anche una punta di questo, e naturalmente adesso ci sarà qualcuno che sarà pronto a querelarmi. Poi dall'altra parte c'è lo schifo intorno, guardate la vicenda per esempio del capogruppo del PDL della Regione Lazio. Questo che viene sfiduciato e salta fuori che sono centinaia e centinaia di migliaia di euro di soldi del contribuente spesi dividendosi tra tutto il gruppo, tra pranzi, cene, pranzi e cene che neanche esistono, si mettono i soldi in tasca perché ci sono cene pagate per 200 persone in ristoranti da 40, capito? E fate un paragone rispetto alla durezza e alla violenza della crisi del paese, le migliaia di lettere che riceviamo come quella che ho letto anche oggi, e questi che pensano a mangiare e a rubarsi soldi. Questo è il partito detto che aveva promesso a noi tutti, a voi, che abbassava lo Stato, la spesa, le tasse, il debito, e c'ha figuri come questi. Figuri come questi, qui adesso ci dicono che, naturalmente, esponenti del PD nazionale dicono che li cacciano. Questi pranzi e queste cene ci andavano tutti, a quanto pare. Si è difeso questo signore presentando un controdossier in cui la pratica è estesa a tutti i suoi colleghi di partito. Naturalmente non sto dicendo questo per dire che bisogna giustificare e capire chi prende le armi, e dall'altra parte, secondo me, nei giudici che dicono andiamoci più piano, non siete dei terroristi, c'è una maniera anche di tenere in considerazione tutto questo, solo che il giudice sbaglia a fare questo, secondo me, sbaglia profondissimamente, ma questa è solo la mia personalissima opinione. Allora, riparte This is the End, diciamo che ci sono mixed feelings, come si dice, sentimenti un po' diversi nelle reazioni sugli SM. Perché alcuni, per esempio, c'è uno che dice per quei giudici i criminali hanno lo stesso diritto eventualmente di fare la guerra riconosciuto agli stati sovrani, è un po', quindi, come dire, che è una reazione anche alla corruzione e alle ruberie che dilagano e di cui ci parla. Altri invece sono durissimi nel dire che non mi devo permettere di parlare male del PDL, io che ero un servo di Berlusconi fino a ieri. Questa roba, che io sarei stato il servo di Berlusconi che mi ha cacciato da Rai 1 molti anni fa, è una delle leggende più dure a morire. Ma sapete di chi? Nella testa di chi è ancora berlusconiano, perché è così corrivo all'idea di servire il padrone leccandogli le scarpe. Sto parlando dei parlamentari del PDL, i più dei parlamentari che hanno perso la mia stima, che ancora non capiscono qual è la portata del dramma che vivono, che ti dicono, essendo servi, tu eri servo come me. E io dico, guardate, proprio non ci siete proprio con la testa. Questo ve lo dico con tutta la durezza, perché è purtroppo per me un motivo di affermazione della mia dignità, nel senso che io servo non sono mai stato di nessuno, francamente, a differenza di altri. E alcuni mi dicono che, appunto, parlare della vicenda del PDL, che è solo adesso ha diritto al processo, anche quello del PDL avrà diritto al processo, ma è lui che ha rivelato questo dossier, lui stesso accusato si è difeso dicendo questi sono gli 800.000 euro che ho speso con tutti i miei colleghi al gruppo PDL della regione Lazio, è il suo avvocato che l'ha rivelato, quindi, diciamo, il reo confesso, per così dire, no, non lo sto giudicando al posto del giudice penale. Se ne può parlare, amici del PDL che dite che volevate meno spese dello Stato leggero e vi magnavate i soldi, oppure no? Io credo che se ne debba parlare anche a questi microfoni. Allora, ci ha chiamato Aldo Ravaioli da Torino. Aldo Ravaioli, per chi se lo fosse dimenticato, è stato una vittima del diciamo di tutto ciò che dall'estremismo politico è poi diventato anche terrorismo politico, e quindi ne ha avuto la vita segnata. Ci ha chiamato lui e io lo ringrazio e lo saluto. Buongiorno ad Aldo Ravaioli. Buongiorno Oscar Giannino. Allora, a lei una sentenza come di questo tipo, per quello che ha visto nella vita e per come gli è cambiata la vita per anni, per questo, che ne pensa? Io sono esterrefatto. Sono esterrefatto per due ragioni. La prima, perché non capisco cosa vuol dire distinguere l'obiettivo preciso dagli obiettivi indiscriminati. Nel mio caso, il lunedì ferirono gravemente il presidente dell'Unione Industriale di Genova, il martedì il sottoscritto, il mercoledì il vice dell'Unione di Milano. Erano obiettivi precisi, non era terrorismo, era una cosa ben fatta mirata. Dice, non riesco a capirlo, soprattutto non riesco a capire dei giudici che non capiscono qual è lo stato di tensione del paese oggi, quello che lei tutti i giorni descrive, per il quale io ho sottoscritto il suo manifesto, spero di lavorare con lei, ma oggi parliamo d'altro. Sono nervosissimo su questa cosa, perché l'ho sofferta sulla mia pelle, sto soffrendo ancora oggi, dovrò sottopormi probabilmente a dei nuovi interventi prossimamente in conseguenza di quello, e veramente non riesco a concepire. Oggi c'è uno stato di tensione, ma non che c'era nel 78, chi andava a Mirafiori nel 79 dentro la fabbrica viveva un clima che oggi non è molto dissimile, anche se diverso, da quello delle persone che sono in cima alle ciminiere, in fondo alle miniere, in mezzo alle piazze, che buttano le bombe carta, che combattono con la polizia per salvare una situazione, un loro posto di lavoro, che disprezzano la politica, giustamente. Aldo Ravaioli, la devo interrompere perché noi abbiamo finito il tempo. Io sono d'accordissimo con lei, c'è tutto questo dolore e questa disperazione, a maggior ragione che noi, che ne riconosciamo il fondamento, dobbiamo andarci pianissimo di fronte al dire questo non è terrorismo. Grazie a tutti voi e a molti ascoltatori che erano ancora in linea con le loro telefonate. Scusate, appuntamento a domani. Yeah.